Associazione Nazionale Canale, benvenuti e bentrovati per la presentazione dell'ultimo libro di Aria degli Scritti. Sono molto felice di farlo piangere. È l'emozione, è mio figlio. Per inciso è anche il figlio di Aria. Esatto, non ho per inciso, proprio per scelta. Bene, siamo molto contenti di avervi. Primo perché poi tornerà Valeria, questa è la penultima iniziativa che organizziamo prima del trasferimento della biblioteca di Claudia Augusta. Mi siamo preciso di fare un colloquio per noi molto importante, perché come sapete la biblioteca Claudia Augusta finalmente siamo riusciti a trovare un luogo veramente consono per la nostra biblioteca. In attesa della costruzione del polo bibliotecario più bilingue, che facciamo, ci sono i fondi, ci sono quindi un polo bibliotecario al centro della città, che è una bella cosa. Ovviamente ci vuole un po' di tempo per costruirlo, guardo il mio collega Paolo, lavoriamo insieme in biblioteca, però nel frattempo abbiamo acquistato una banca, la cultura ha acquistato una banca, esatto, credo che sia un unico mondiale come sottolineato da te, questa è una battuta di Antonio Lampis, dice credo che sia un caso unico al mondo in cui un ente culturale acquista una banca, di solito avviene diciamo il contrario. E quindi qua sotto, se arrivando, i locali che hanno della banca saranno occupati dalla biblioteca Claudia Augusta. Poi in futuro comunque questo spazio sarà sempre più integrato all'interno del Centro Trevi. Il Centro Trevi è, come sapete, un punto di riferimento non solo per la cultura italiana, ma in generale si fanno tante iniziative. Questa è una sala molto bella, poi ce n'è una anche sotto per chi non è stato, con il Cerchio dell'Arte, che è un'esperienza sensoriale di avvicinamento anche al mondo dell'arte. Insomma, si cerca di fare cultura nel nostro territorio e per il nostro territorio. Sono particolarmente contento poi di essere qui, siamo qui tutti insieme, ci conosciamo in tanti, per presentare l'ultimo libro di Alex Boschetti, perché non è un mistero, insomma, che ci conosciamo da un po' di tempo e che ho seguito anche un po' la sua carriera di autore e di scrittore, e che è stato capace insomma anche di affrontare vari generi, sia dal genere diciamo più comico anche ad affrontare il tema giornalistico di ricerca, alcuni nodi cruciali anche della storia del nostro paese. Lui abita, pur essendo bolzanino, come sapete abita a Bologna. Ragionavo che c'è un legame forte effettivamente fra Bolzano e Bologna, sia in andata che in ritorno. Tanti bolzanini sono stati hanno studiato, poi sono rimasti a Bologna a fare tante attività culturali e viceversa. Quindi effettivamente quest'asse Bobo era un asse molto molto interessante e molto proficuo. Non avendo ancora letto l'ultimo libro non ne parlerò, perché non si parla di ciò che si conosce. Però sottolineo, non so se avete notato, avevo qui in mano un altro libro che si chiamava Nera Neve, e questo si chiama Un interminabile inverno, quindi in qualche modo c'è un riferimento sempre. E quindi quale momento migliore che l'inizio dell'estate per presentare un libro che si intitola Un interminabile inverno. Quindi grazie ad Alex, grazie anche a Paolo e a Giuliano, che è il... È un editore del libro, per essere qui, e buona presentazione a tutti, grazie. Proseguiremo con queste iniziative, con questi progetti comuni anche in autunno, per cui ci rivedremo qua per metà di settembre per le nuove iniziative. Vi invito domani a tornare, perché avremo un altro libro che riguarda invece la storia in Africa, con i tre autori saranno presenti, Dodaro, Padella e Consentino. Ringrazio tantissimo i nostri ospiti, in particolare appunto Alex Boschetti, nonché Paolo Crisi Carnevale, che è un nostro collega della Civica, e l'editor Giuliano Geri. Alex Boschetti l'abbiamo conosciuto 14 anni fa, scusa insisto perché non volevo insistere, ma ecco, il tempo è passato in un attimo, è volato, perché noi eravamo proprio ai bordi della nostra avventura civica provinciale. E devo dire che il filone Quara che Alex cavalca lo cavalca molto bene, con successo, ha una bella capacità di costruire delle trame, una suspense di tutto rispetto, per cui ve lo dico perché mi piace questo genere, quindi sono un po' di parte in questo caso, e gli faccio tanti in bocca al lupo anche da parte di tutti noi, e speriamo di ritrovarci però non tra 14 anni. Ecco. Immaginate. Ecco. Grazie ancora e buona serata a tutti quanti. Grazie. Cioè io vorrei sovvertire il protocollo delle presentazioni, no? Dove di solito i ringraziamenti si fanno alla fine. Però visto che non abbiamo assolutamente idea di cosa accadrà da qui in poi, volevo subito togliermi questo sassolino. Insomma, innanzitutto ringrazio Christian, che ho visto ha avuto un paio di momenti di imbarazzo, poi ho detto l'ho seguito nella sua carriera letteraria, in realtà ci siamo seguiti anche in momenti un pochino meno nobili, insomma, un po' più di divertimento, però insomma apprezzo le sue qualità oratorie e politiche, però in realtà è un amico di quelli con la maiuscola. Gli avevo chiesto se insomma fosse stato qua oggi, insomma per noi è anche un'occasione di rivederci perché facciamo fatica a incontrarci, ecco, insomma, giusto per togliere la formalità alla forma, no? Come si suol dire. E volevo già ringraziare, prima di passare la parola insomma ospiti probabilmente più illustri di me, anzi senz'altro, voglio ringraziare Aldo Manza, che è l'editore che ha creduto in questo progetto, in questo libro, insomma, da subito, per cui stiamo condividendo insomma una serie di esperienze, penso, molto interessanti, cioè stiamo portando il libro in contesti, poi magari vi spiegheremo meglio dopo, particolari e non abituali, possiamo dire, anche oltre insomma la dimensione territoriale, diciamo così. Ringrazio chi ci ospita, l'ho fatto prima di persona, insomma lo faccio adesso davanti a tutti, e poi niente, insomma, oh, siete tantissimi, questa cosa mi fa veramente piacere. Vedo tanti amici che non li vedevo da tanto tempo, che insomma gli elenchi, però mi fa piacere che ci siate tutti, perché per me è un'occasione anche per stare insieme. E infine ringrazio chi in questo momento è i miei ancelli, che sono amici, persone che hanno creduto in me in tempi e modi diversi, però senza i quali probabilmente spesso e volentieri non avrei trovato quell'energia per sopportare 14 anni senza scrittura, no scherzo, per riuscire a scrivere questo libro. Quindi ringrazio Giuliano Geri, persona preziosa nella dialettica, soprattutto rispetto alle nostre discussioni sulla letteratura, eccetera, eccetera, intelligenza finissima, e per me ormai è necessario interlocutore. E ringrazio ovviamente Paolo, che diciamo, lui sì, veramente mi ha seguito fin dagli esordi, anche quando ancora prima non avrei neanche pensato di farla questa cosa qui, insomma, che vostro malgrado adesso invece è andata ad esperire, cioè la mia scrittura. Ok, adesso scusate se ho un po' sovvertito sul protocollo delle cose, insomma delle presentazioni, ma ci tenevo, e adesso quello che accadrà accadrà. Come cartolini da altri tempi, dai colori talmente vivaci da sembrare ritoccati, mi perdo nei fotogrammi di un alto adice pieno di segmento impeccabile. Ogni pinnacolo, crinale o vigna che si potizza l'accento del finestrino si trasforma in un frammento illustrato. Osservo incantato la mia terra che scorre, così bella e così inafferrabile. La neve segue i movimenti dei bacini a tratteggiare monumentali lacrime bianche che sgorgano dalle montagne. L'immutabilità del paesaggio è però soltanto apparente. Via via mi accorgo invece che tutto è così miseramente cambiato. Fabbriche, capannoni, case, alberghi, impianti scistici che sfuggiano in cime, meleti aperti da d'occhio. In realtà tutto è nuovo, anche questo treno che è indifferente e riconsegna alle origini. Il panorama che mi sfreccia mi fa ripensare la mattina. Siamo tutti imprigionati in un'eterna mutevolezza, che ci pare ovvio, se non addirittura auspicabile. L'idea, razionalmente, la accettiamo, con serena rassegnazione. Eppure, a un certo punto della vita, non la sentiamo più. Fare figli, avere una famiglia, ci porta a fraintendere. Signore e signori, buonasera, benvenuti, grazie di essere qui con noi. Quello che vi ho appena letto è un frammento dell'ultimo romanzo di Alex Boschetti, freschissimo di stampa, Un interminabile inverno è il titolo. Stasera dialogheremo, converseremo su questo romanzo e noi vi invitiamo già adesso a partecipare alla conversazione. Allora, è un romanzo, devo dire, se ci ha messo 14 anni per scrivere il suo secondo romanzo, Manzoni ci ha messi di più, però devo dire che il risultato è davvero sorprendente. Il perché spero che venga fuori dalla nostra discussione e spero anche che noi e voi incalzerete Alex con domande, suggerimenti, idee. È un romanzo strano, nel senso che, come tutti i romanzi che si rispettano, è costruito su un intreccio ed è una storia che contiene altre storie che poi convergono verso un finale. Quindi, dal punto di vista della geometria narrativa, Alex è stato molto, molto ligio, molto preciso, quasi perfetto. E però perché? Tra i tanti motivi di approfondimento e discussione vi ho letto quel passaggio. Perché? Perché in un certo senso qui noi stasera giochiamo in casa perché i personaggi principali appartengono tutti a questa terra e perché potrei dire che questa terra è una sorta di personaggio nel romanzo, contiene quelle storie che poi vanno a comporre una vicenda. È un Alto Adige lontano dalle cartoline, lontano dalle immagini turistiche idilliche, un Alto Adige molto cupo, fatato. Sì, molto buio, in cui però risplende sempre la luce della neve. Ed è un Alto Adige, diciamo, che è pieno di verità dissotterrate, almeno nei legami indissolubili che tengono insieme questi personaggi. Verità sotterrate non solo in senso metaforico, poi leggendo il romanzo scoprirete perché. Ed è soprattutto un Alto Adige tratteggiato in modo molto nitido in alcuni riti ancestrali che nonostante tutto sopravvivono ancora. È un Alto Adige da cui proviene il nostro autore, che in un certo senso segue un destino parallelo alla sua creatura letteraria. Il personaggio principale si chiama Albert Klein, anche lui Alto Adesino, si trasferisce a Bologna, in questa linea poco. E anche lui però ha il richiamo delle radici, delle origini, appunto dei legami di infanzia che lo accompagnano, diciamo, per tutta la sua vita. Una vita che poi vedremo che ha subito uno, due, tre, quattro, tanti scossoni che lo hanno portato a sprofondare nel cosiddetto mare oscuro, e quindi anche questo è un tema che spero venga fuori stasera, ma in un certo senso, come dire, anche lui è un po' un abbrunni, no? Un po' un renegato, come lo sei tu, no? Siete andati da giovani, siete trovati bene a Bologna, in una Bologna che in questo libro è appunto un luogo umido, freddo, anche lì, anche lei un po' cupo, però sempre per rimanere quasi nel vocabolario niciano, siete rimasti fedeli alla terra, no? Come diceva Zarathustra, e quindi alla terra ritorna. Ecco, detto questo, io la discussione prosegue, adesso cedo la parola a Paolo Cresi Cannevale, che devo dire in perfetta tenuta da interminabile effetto, scrittore, bibliotecario rock. Va così a sciare, lui va così, sì. A sciare. Ciascole, ma così. Lavoratore di biblioteca, non biblioteca. Prego? Lavoratore di biblioteca. Lavoratore di biblioteca. I bibliotecari ci tengono a tenere separate le cose. Biblioproletario, va bene. Sì. E poi questo signore alla mia destra, che è Alex Boschetti, per chi non lo conoscesse ancora, è uno sceneggiatore, è uno scrittore, ha lavorato molto come con sceneggiature per fumetti e graphic novel, ha scritto un bellissimo graphic novel sulla strage di Bologna, edito da Bercogliano una decina di anni fa, e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ha collaborato con Carlo Lucarelli e credo con tutto il mondo di Manuelide, che era dato conoscenza, però lui è uscito da solo, non è colpa mia. Anche perché insomma, sulle doti letterarie di Giuliano non conosco mai. Ognuna le sue. Ha scritto diversi racconti, uno dei quali presente nel volume 10 scrittori per 100 anni per festeggiare il centenario del Bologna Football Club, e ha pubblicato 14 anni fa appunto il romanzo Nera Nera. Chiudo dicendo che il nostro rispostetti è anche musicista, no? Collabora con Carmelo Pipitone di Marta su Tubi, e speriamo di poterlo vedere all'opera in un abbinamento libro accompagnamento musicale qui in Alto Adige con il suo amico. Io cederei adesso la parola a Paolo, che magari entra più nelle pieghe del romanzo e poi incalza lui, perché lui che deve parlare. Ricevo il testimone, anche se la forma più o meno quella. Buonasera a tutti, grazie ad Alex di avermi voluto qui, è un gran piacere perché mi aveva voluto alla presentazione di Nella Neve, alla presentazione di un altro libro che aveva realizzato non in autonomia e solitudine, perché era lo sceneggiatore di una cosa di ricerca sul mondo cimbro. Quindi è un piacere essere qui a parlare di questo interminabile inverno che ho terminato di leggere poche ore fa, quindi sono molto fresco di lettura, e che ho trovato innanzitutto molto ben scritto, e di questo non avevo grandi dubbi, perché avendo letto le cose precedenti di Alex sapevo a cosa andavo incontro, ma l'ho trovato molto avvincente, molto diverso dal libro che l'aveva preceduto. Quello era una black comedy, qui siamo proprio in un ambito di noir con un sacco di risvolti e pieghe psicologiche che potrebbero farci stare qui a parlarne per la prossima settimana, volendo. Poi magari non è il caso, perché dopo una certa ora cala l'attenzione, però per dire è veramente un libro molto ricco, e quindi ringrazio ulteriormente Alex per averci dato questa bella lettura da fare. Appunto, un libro che si può leggere sia come un noir senza dedicarsi troppo ai risvolti ulteriori che invece il libro contiene, e invece può essere letto proprio soffermandosi a riflettere anche sui drammi personali che i vari protagonisti subiscono nel corso delle loro esistenze. Allora, innanzitutto, visto che tu stai a Bologna e il libro, diciamo, per un buon 80% è ambientato a Bologna, io leggendolo ho avuto, diciamo, la sensazione di ritrovarmi una Bologna che mi ricorda molto la Bologna di un altro autore di romanzi, diciamo, noir o polizieschi o gialli, a seconda poi di come si voglia andare a classificarli, a seconda poi anche della corrente, diciamo, del giallo in cui si infilano. E questo autore è Loriano Machiavelli, che immagino Oscar probabilmente abbia detto, perché appunto la tua Bologna mi ricorda molto la sua. È una sensazione giusta questa che ho, o è soltanto perché io come riferimento letterario ho in mente lui, ho in mente Carlotto, però Carlotto racconta una Bologna completamente differente secondo me, mentre la tua è più machiavellica nel senso di Loriano. Qual è il microfono che uso? Puoi usare quello mio personale. Ma che fortuna, vorrei fare più presentazioni. Allora, vorrei sgomberare subito un po' il campo dall'idea che le città nei miei libri abbiano una valenza particolarmente simbolica, insomma, no? O ancestrale, insomma. Fondamentalmente siamo fatti delle cose che abbiamo vissuto, delle persone che abbiamo conosciuto, delle relazioni che abbiamo intessuto e delle città in cui abbiamo vissuto sostanzialmente. Quindi il fatto che Bolzano, così come Bologna, insomma, in questo caso anche New York, ma soprattutto Bolzano e Bologna, siano così fortemente presenti nei miei romanzi o comunque nei miei lavori in generale, nasce semplicemente dal fatto che sono le città che conosco meglio e che mi sono entrate più sotto pelle, fondamentalmente, di cui conosco le contraddizioni, di cui conosco magari anche le grandi bellezze struggenti, insomma, di cui conosco un pochino i segreti. Fondamentalmente sono le città in cui io ho vissuto però le mie contraddizioni, perché tendiamo sempre a ragionare sulla città quasi come se fosse un oggetto, se non astratto, astruso, comunque lontano da noi, che noi osserviamo e cerchiamo di comprendere. In realtà noi attraverso questa osservazione cerchiamo di comprendere noi stessi, ecco. Quindi io parlo di queste città per questo motivo qui, fondamentalmente, e la Bologna di Machiavelli, nonostante lui sia di una generazione e mezzo forse, insomma, prima di me, forse anche di più, io, fra l'altro, con lui ho presentato diverse cose, sì, può apparire simile perché è una città, Bologna, che mantiene, nonostante, insomma, periodi anche di natura politica abbastanza contraddittori, difficili, eccetera eccetera, mantiene comunque un'anima che è un po' quella, insomma, no? È l'anima di una città che è molto ricca, molto vivace, vuole in qualche modo promettere molto. Infatti tanti bolzanini vanno là pensando di trovare un po' il Bengodi, di trovare in qualche modo la liberazione dal provincialismo, diciamo così. In realtà capitano in un altro provincialismo, semplicemente, no? Il provincialismo di chi non accetta di essere provinciale, si lancia sostanzialmente o si propone verso lidi diversi, ma rimane terribilmente provinciale, insomma. È un po' anche rassicurante questa cosa, perché, come dire, bene, io sono andato via da Bolzano, ma sono andato a vivere a Bologna, sono andato a vivere la contemporaneità. In realtà stai vivendo semplicemente un'altra città molto poetica, molto romantica, molto legata anche alle proprie tradizioni, che ti sta promettendo qualche cosa che in realtà non manterrà. Ecco, fondamentalmente quello che a me piace di Bologna è anche questa cosa qui, insomma. New York è esattamente il contrario, per questo nel libro se l'ho voluta inserire. In questo caso sì, è una città che ha una funzionalità narrativa, New York. New York invece è la città che promette e mantiene subito, e nel momento in cui sta mantenendo quella promessa te la mantiene prima ancora che tu te l'aspetti quella promessa. È velocissima, ha una velocità che è completamente altra, non è una città che riflette su se stessa in continuazione in maniera quasi paranoica, è una città che agisce, fa, propone e poi magari la riflessione si scatena successivamente. E quindi in questo senso mi serviva New York, ma Bolzano e Bologna hanno per me questa doppia valenza: le amo, quindi le odio, a proposito di contraddizione, e sono città che continuano a guardare al proprio ombelico dal mio punto di vista. Anche se diciamo qui c'è, ripeto, c'è uno sfondo che è l'Alto Adige rurale, profondamente rurale. Ecco, ci sono dei riti adolescenziali, ci sono i Krampus, ci sono tutta una serie di fenomeni un po' folcloristici, un po' anche inquietanti, che non sono facili da spiegare. Tu che rapporto hai con questo Alto Adige oscuro, tradizionale, cupo? Fondamentalmente sono affascinato da tutte quelle derive, insomma un pochino cupe, un pochino scure, un po' maledette, perché innanzitutto sono degli espedienti ottimi per scrivere un buon noir, quindi in maniera molto semplice diciamo che una serie di elementi che già sono presenti nella realtà hanno una forte capacità di rendere la narrazione avvincente. Ma poi, come ti dicevo Giuliano, sono comunque degli aspetti interessanti, perché l'uomo ha bisogno sostanzialmente di andare a costruire attorno alla sua parte un po' più scura, no? Alla sua, come si dice in maniera banale, attorno alla sua anima nera, a costruire una narrazione che in qualche modo li liberi da questa loro stessa paura, no? Insomma, è un po' quasi un espediente quello di reificare la paura, fare in modo che non diventi solo un fattore privato ma diventi quasi un fattore sociale, no? Quindi la tradizione, il Krampus, al di là di quello che poi significa in termini storici, danno l'opportunità di uscire, diciamo, dalla propria paura individuale e socializzarla, ecco, renderla elemento di tradizione, per l'appunto. Quindi è molto interessante questa cosa qua dal mio punto di vista. Poi questo è un libro che e poi chiudo e ti lascio la parola, Paolo, un po' più per entrare nel merito. Questo è un libro che, per usare una definizione di Raul Montanari, che è un noir, è quasi un post noir, no? Noi fondamentalmente abbiamo sempre bisogno del poliziotto, dell'inquirente, quindi di osservare il dato criminale o il dato di paura attraverso gli occhi di un buono o comunque di un personaggio che rimette un po' a posto le cose, diciamo così. E questo è il poliziesco. Il noir capovolge un pochino questo point of view e guarda quello stesso fattaccio, quello stesso dramma, lo guarda dagli occhi della vittima o comunque di chi ne è responsabile direttamente. Quindi ci dà la possibilità di andare a indagare in maniera un pochino più diretta, sporcandosi le mani, questo lato oscuro di cui parlavo prima. E non c'è bisogno di creare, diciamo, delle situazioni particolarmente rocambolesche, importanti, eclatanti. Il post noir, giusto perché abbiamo usato questa definizione, nasce proprio dai drammi, grandi drammi che possono nascere da delle piccole frustrazioni personali, insomma. E credo che questa sia una cosa interessante, lo è almeno per me. Sì, dunque, tu parlavi di questa cosa del noir, post noir, il poliziotto. Nel libro tu comunque hai inserito anche un personaggio, diciamo, che di mestiere fa il poliziotto, e è un personaggio che anche come la Bologna, mi viene in mente quella di Machiavelli, anche il poliziotto che hai creato per questa storia è un poliziotto un pochino sempre un po' dimesso, un po' in ombra, ma non certo il classico poliziotto che fa azione, che fa le brillanti deduzioni, i ragionamenti, è un poliziotto semplice, che però, devo dire, la cosa emerge molto bene leggendo il libro, perché man mano che si va avanti, questo poliziotto, l'ispettore Motta, è un soggetto ricorrente, ma sempre con molta discrezione, non è mai invadente, a volte viene da dire, ma perché non ti butti, Motta, a questo protagonista gli dici che tu sai, che hai capito, e invece è sempre molto discreto, molto gentile, molto cordiale, amichevole, ma mai amico in senso stretto, fino però a diventare il Deus Ex Machina nella parte finale, perché nella parte finale è quando il lettore a un certo punto comincia ad essersi quasi dimenticato una parte di trama, tanto il tessuto è vario, spesso e denso, ricco di cose. Alla fine, almeno a me è capitato così, mi sono ritrovato a farmi prendere più da una parte, diciamo, più psicologica, più senza dare poi un peso reale a quella che invece è davvero la vicenda tragica e post-noir, diciamo, dell'intero libro. E nel finale, diciamo, nelle ultime 15 pagine, ricompare l'ispettore Motta a New York, dove l'azione si è spostata nel frattempo, è lì, cioè, colpo di teatro. Ma sì, poi voi dimenticatevi tutto questo, perché però no, in realtà non hai detto niente di così, così sostanziale, assolutamente no, assolutamente niente. No. Però ecco, il discorso è questo, era il tentativo, il personaggio dell'investigatore un po' ci sta, anche in questo caso, insomma, ho avuto bisogno di un personaggio funzionale poi alla storia, insomma. Però ecco, togliendo quella patina un po' pecciosa, fastidiosa, tipica del manicheismo letterario, cioè di questa distinzione che deve essere sempre netta fra buoni e cattivi, il poliziotto che magari ha delle debolezze, è uomo prima ancora che poliziotto, ma che comunque lotta fino alla morte per la giustizia, e il criminale, volontario o involontario che sia, che alla fine ne ha bisogno, tutti cosa, cioè, ho voluto cercare di rompere un pochino questa visione dicotomica un po' manichea, anche perché penso che queste tipiche costruzioni seriali poi dopo un po' annoiano, anche nel senso che fanno presagire troppo, e nel mio caso preferivo fare un'operazione letteraria diversa, insomma, sostanzialmente. Quindi il personaggio Motta sì, è un poliziotto, ha una sua funzione anche nello svolgimento, come dicevi giustamente tu, Paolo, del plot, però a volte ci si dimentica che è poliziotto, è fondamentalmente un uomo solo che ha individuato in Albert Klein, il protagonista del libro, l'unica persona con cui poter costruire un'amicizia, perché c'è condivisione, perché fondamentalmente entrambi probabilmente sono perdenti. Albert Klein se ne rende conto troppo tardi, dopo una vita di lustro, dopo una vita di successo privato, pubblico, dopo una vita in cui tutto funzionava esattamente come doveva funzionare, personaggio famoso in televisione, accademico di grido, famiglia perfetta. Improvvisamente Albert Klein scopre di essere una persona miserabile perché si è dimenticato di alcuni aspetti importanti della sua vita. Motta, l'ispettore, probabilmente questo percorso l'ha già fatto o comunque l'ha fatto assieme ad Albert Klein. Quindi è l'incontro tra due persone che hanno voglia e desiderio di ricostruirsi una persona, un personaggio che il protagonista lo fa in un modo, lui lo fa, Motta, in un altro ancora, attraverso proprio la vita di Albert Klein, come se aiutandolo, salvandolo, salvasse un pochino anche se stesso. Sì, tra l'altro nel post-noir non ci sono necessariamente omicidi, come in questo caso. Ci sono delle misteriose sparizioni intorno alle quali ruota l'intera vicenda e ruotano anche i destini di diversi personaggi. Primo fra tutti appunto Albert Klein. Ecco, tu hai detto prima, se il noir guarda il mondo con gli occhi della vittima, qui tu in un certo senso guardi il mondo che si riflette nella vittima. Cioè questo è questo romanzo è anche un percorso all'interno di un destino individuale che giorno dopo giorno finisce in un gorgo, finisce appunto in quell'abisso chiamato depressione, ed è davvero un percorso interessante perché ci fa capire quanto sia legata all'elemento quotidiano la depressione, quanto diciamo i tracolli nella vita, i lutti, perché diciamo qui ci sono dei lutti, anche se ufficialmente non ci sono delle morti acclarate, però ci sono dei lutti, quanto il lutto diventi fondamento inaggirabile del quotidiano. E qui devo dire c'è un gran lavoro di tratteggio del personaggio, nel seguire i suoi pensieri, nel seguire i suoi movimenti privi di direzione. Ecco, è proprio intorno a questa sorta di vuoto interiore ed esteriore che si gioca tutta la vicenda. Quanto io credo che sia, io non mi è mai capito, forse quasi mai, di leggere, diciamo, un noir, un post-noir in cui il protagonista è un depresso, ma un depresso per me nel senso clinico della parola. Non è autobiografico? No. No, perché temevo poi... Non è, diciamolo subito, esatto, non è che rischiamo di mettere in guardia, esatto, chi viaggia, che poi succede questa cosa. Sì, in realtà guarda, la depressione, allora non vorrei che sembrasse un libro troppo psicologico, diciamo, nel senso che è un libro costruito su capitoli molto brevi, succedono tante cose, tanti colpi di scena, certo, è un libro che ha una scrittura in certi casi un po' rarefatta, proprio perché si vuole lasciare intendere senza dire, però fondamentalmente è un libro che non si perde in una sorta di flusso di coscienza, insomma, di stream of consciousness, per dire, ma è un libro in cui accadono delle cose. Certo, come dici giustamente tu, che il libro lo conosci bene, il personaggio è un personaggio che fa i conti con un improvviso vuoto, e questo lo porta a perdere tutte le certezze che aveva su se stesso, e quindi in maniera molto più pop, meno psicologica, mi viene a dire, gli cadono le braccia, a tal punto che rimane in qualche modo congelato in immobilismo, non riesce più a fare, a dire, non riesce a relazionarsi, tutto quello che prima faceva con una disinvoltura quasi eccezionale non gli riesce più, e quindi è un uomo che ha perso un po' se stesso e che è talmente stanco, talmente provato dai dolori, che non ha quasi né la forza né la voglia di recuperare, di riprendersi, di riprovarci. E quindi questo ecco, è un elemento tipico magari di chi sta vivendo una depressione in senso un pochino più compiuto, insomma, anche in termini clinici, cioè l'incapacità di uscirne. Ecco, in questo vedo effettivamente un'affinità importante. Per il resto io credo che Albert Klein sia una persona che vive uno smarrimento fortissimo e giustificato, perché la scomparsa di un figlio, giusto per incominciare a dare degli elementi in più, è un po' una scomparsa di sé, no? Adesso, al di là del valore simbolico, è qualcosa che ti lascia un vuoto, che soprattutto se non sai perché scompare un figlio, non viene ritrovato, non si sa che cosa succede, rimane comunque un vuoto senza spiegazione, che è ancora peggio di un vuoto drammatico, che una spiegazione, per quanto drammatica, ce l'ha, insomma. Quindi vive una situazione di totale smarrimento, di crollo della propria identità, di crollo di tutto il sistema relazionale costruito fin qui. E a quel punto che cosa succede quando un uomo è completamente perso e non ha più punti di riferimento? Torna dalla mamma, dalla madre, che può essere, come nel caso del libro, la madre biologica, ma può essere anche la sua terra d'origine. Tutti noi, si dice che il punto di morte, l'ultima persona che invochiamo, è sempre la mamma. C'è in qualche modo il desiderio di riscoprirsi attraverso le proprie origini, non attraverso il percorso che ha fatto nel frattempo, ma attraverso quello che è stato costruito da lui in termini di relazione. Infatti gli amici suoi sono amici d'infanzia, quando era ancora una persona legata sostanzialmente alla propria terra, al proprio mondo, senza grandi velleità. Ha bisogno di ritrovare un pochino quel nucleo lì, insomma, no? Quel nocciolo lì. E infatti questo è un po' il tema portante del libro. Cioè, invece dello Xanax, lui praticamente utilizza Bolzano e l'Endiotte. Poi, ironicamente, però, lui si lascia travolgere da tutti questi eventi che gli capita, perché comunque nel corso di questo inverno, che veramente non finisce mai, gliene succedono di tutti i colori, nel senso che non ve le anticipiamo perché è giusto che ve le scopriate leggendo il libro, però veramente si susseguono i fatti che possono riguardare lui, i suoi amici, la sua famiglia e un sacco di altre situazioni. Dall'altro lato però lui a se stesso racconta di essere ancora lì che combatte e che resiste, nel senso che questa cosa che tu hai anticipato prima del lutto, della perdita, lui comunque non l'accetta come tale, o questo, quantomeno questo è quello che racconta a se stesso nel tutto il corso del romanzo, mentre tutte le altre persone che gli stanno intorno a questa cosa l'hanno accettata, l'hanno in qualche modo elaborata, lui proprio non ha neanche preso in considerazione che sia successo quello che gli altri ormai gli hanno per scontato. Beh, tanto più i lutti e i drammi sono vicini a noi, tanto meno ce ne rendiamo conto, e comunque tanto meno riusciamo a identificare la chiave per uscirne o per risolverli. Questa cosa è evidente in generale. In più Albert Klein ha un carattere abbastanza complicato, è cocciuto, è testardo, è polemico, è provocatore, tant'è che anche quando la sua vita gli funzionava molto bene, lui è stato espulso un po' dal mondo della televisione per una scenata furibonda in diretta. Insomma, comunque in lui c'è questo aspetto caratteriale che gli complica ulteriormente le cose, insomma. Però sì, quello che dici è corretto, lui non se ne vuole fare una ragione, lui non si rassegna, al punto che entra in un delirio, in una sorta di delirio, perché un uomo che fino a pochi mesi prima aveva calcato, insomma, i palcoscenici, anche accademici più importanti, più autorevoli, che in qualche modo entra in contatto con la mala del Brenta, per esempio, come è il caso del libro, evidentemente è un uomo che sta esperendo una situazione completamente delirante, cioè ha avuto una caduta vertiginosa addirittura fino ad arrivare a sporcarsi le mani con una situazione che forse non avrebbe neanche teorizzato solamente in tempi non sospetti. In questo caso non solo non la teorizza, ma ci ficca le mani dentro fino all'avambraccio, insomma, e quindi è un uomo che evidentemente è disperato. Però ecco, chiudo, forse anche questa sua debolezza quasi enfatizzata, quasi esagerata, ce lo rende anche simpatico, perlomeno. Senza dubbio. Anche perché comunque poi alla fine è un uomo che ha appunto le sue debolezze, non è un supereroe. Esatto. Che, al contrario di quello che possiamo trovare nel noir, nel poliziesco, dove c'è sempre invece il personaggio, per quanto complicato possa essere, comunque è un po' supereroe, lo è sempre. Lui invece proprio da questo punto di vista è una persona qualunque. Sì, è un personaggio debole, ma in quanto debole è capace di odiare. Di odiare a tal punto da... Ma questo è il... Sì. Siamo tutti, credo, adesso... Ma capace di odiare al punto da sì. Volere... Perché è un momento di esasperazione che... Non è neanche convinto lui di avere, cioè diciamo che non lo fa, comunque non diciamo che lo fa. Se, no, però lo dice lei, è vero. Non lo diciamo, da odiare al punto da, fidatevi. Lasciatevi ma in realtà c'è una debolezza e c'è una forza. La debolezza l'abbiamo vista, la debolezza di una persona che si trova a dover reagire davanti a delle situazioni straordinarie, delle tragedie della vita e non ha, diciamo, le risorse per farlo. Ma c'è anche una forza antica, perché questo è un libro di sparizioni misteriose, ma anche un libro di tradimenti. Perché di tradimenti? Perché in realtà uno dei leitmotiv del racconto è l'amicizia, un'amicizia che si protrae, parafrasando il libro, per un'interminabile infanzia, adolescenza. È la storia di cinque amici d'infanzia che si ritrovano adulti e si ritrovano comunque a ricercare quel legame forte che è, diciamo, lo stesso di quando erano bambini, nonostante poi ciascuno abbia preso la sua strada, siano diventati anche personaggi famosi, affermati. Ecco, in questa forza si, di questa forza si nutre quell'odio che lo porta, Albert Klein, a commettere un atto, diciamo, di scarsa cautela, no? Beh sì, il rapporto con gli amici è sicuramente centrale, ma questa cosa, tra l'altro, posto che il prossimo libro lo intitolerò Un improvviso sul leone, a questo punto, perché questa cosa sto pensando proprio, Aldo, segnala, questa, esatto, va soleggiare. No, in realtà il tema dell'amicizia e del tradimento, in realtà è un tradimento anche coniugale nel caso del libro, è un tema importante. Ma ci riflettevo proprio pochi giorni fa con un amico che è proprio qui presente, Sergio, ma perché alla fine è incredibile quanto, nonostante 20-30 anni magari di successi, di percorsi professionali, si infilino nelle relazioni che si costruiscono fin da bambini, è incredibile quanto in realtà quelle relazioni mantengono i posizionamenti iniziali. Mi spiego bene. Quando noi torniamo, è le famose, anche triste dirlo, perché insomma, però quando si torna a fare la rimpatriata, no? Almeno non ho detto pizzata di classe, che è ancora un pochino più deteriore come cosa, ma quando ci si ritrova fra amici, poi no, anche Andrea, tra l'altro mio fratello, sa, ne abbiamo parlato più volte di questa cosa, si è tutti quelli che si erano, si è oggi quelli che si era prima, poi uno può essere diventato il Presidente della Repubblica e l'altro il criminale un po' più abietto, ma alla fine siamo quella roba lì, quindi il leader di una volta, l'intellettuale di una volta, il compagnone di una volta, tornano ad essere quella cosa lì, in ogni caso, nonostante tutto. Questa cosa può dare fastidio perché non tiene conto, no, dello sviluppo di una persona, della crescita, di un percorso che si fa. Per carità, può essere qualche cosa che a qualcuno può dare fastidio, però è anche terribilmente rassicurante, perché nel momento in cui, per l'appunto, e questo è il caso specifico, ci succede un fatto che rimette completamente in discussione la nostra vita e che ci priva completamente di tutti i nostri punti di riferimento, che siano le famiglie che abbiamo costruito, eccetera, eccetera, le relazioni e i successi professionali, abbiamo bisogno di ritornare in qualche modo a riconoscerci attraverso antichi rapporti, antichi posizionamenti. E questo libro cerca di spiegarla, questa dinamica, che forse è proprio in qualche modo la dinamica un po' più importante e importante, diciamo, del libro. Anche qua stavo per svelare una roba, una fatica terribile, infatti sì, esatto, scriverò un elenco telefonico la prossima volta, così qualsiasi pagina capiti, insomma, va bene, insomma. Comunque questo è un pochino il succo della questione. Che ne dici, Paolo? Sì, una cosa riguardo a questa ultima cosa dell'amicizia, dei tradimenti. La mia sensazione comunque è che in realtà questa amicizia si basi su un fatto che lega profondamente i quattro soggetti, che risale alla loro infanzia, perché erano poco più che infanti quando la cosa succede, e che diciamo è una cosa molto brutta, e quindi è il loro segreto, che è un po' quello che li tiene uniti. Perché in realtà dopo l'impressione, anche per esempio nella narrazione, in quello che dice Albert Klein, perché il libro è scritto in prima persona da questo Albert, diciamo, raccontato in prima persona, che parla sempre di uno di questi amici come quello che è l'amico migliore, l'amico. Alla fine, quando si ha il quadro completo, letto tutto, la sensazione che ho avuto io è che forse l'unico dei quattro amici che fosse, tra virgolette, sincero dall'inizio alla fine, fosse il produttore di grappa, che invece, mentre si legge il libro, è quello che fa la figura peggiore, anche peggiore di un altro dei quattro. A questo punto l'unico peraltro rimasto in Alto Adige, no? L'unico peraltro rimasto in Alto Adige, sì, però sarà fatto la Villa Venice. Vabbè. Diciamo, ma adesso parlo, non so se funzioniamo o meno come teaser, in realtà vi lascio, perché adesso io non so se siamo riusciti a, come dire, a generare un po' di interesse, curiosità. Sarebbe bello sentire se qualcuno ha esatto. Però se mi permetti, prima di passare la parola ai lettori, visto che qualcuno ha parlato di In Vino Veritas, no, volevo farti una domanda tra virgolette cattiva, ma amichevolmente. E io ti conosco, oltre che come amico, come amico e scrittore ti conosco, diciamo, per esperienza personale, per raccontato ti conosco come gourmet. Lo sei ancora? Fai ancora da mangiare bene? Ma sì, certi vizi non si perdono, poi con una famiglia che si è allargata, abbiamo anche i miei figli. Allora, a questo punto, così, però sono pronto a farmi smentire. Vuoi che ti faccio con Tony. Ma tu la trovi così ottima la vernaccia? Assolutamente no. No, a quel punto, soprattutto quella di 30 anni prima rispetto al momento in cui si racconta, a meno che non parliamo di vernaccia di Oristano, che potrebbe essere un'altra cosa. No, ragazzi, parliamo di vernaccia. Esatto, io sapevo che sarebbe scattata la querella. Ok, sì, no, io la trovo ottima. Io la trovo ottima. Scherzava Paolo. Tony dice che ce ne sono di ottime che sono buonissime, ma che 30 anni fa, ho ragione, io non c'ero. Detto questo, la prossima volta potremo assumerla prima della presentazione, a questo punto così ne parliamo. esatto, ha ragione veduta. Ma io prima di lanciare la parola e insomma aspettarmi, perché mi aspetto insomma delle domande, delle suggestioni, insomma. Dico un'ultima cosa, mi è capitato per un altro lavoro che sta per uscire, che è appunto Mani Pulite, una graphic novel su Mani Pulite, di confrontarmi recentemente, poche settimane fa, con i due PM di Mani Pulite, Gerardo Colombo e Francesco Greco, che in questo momento è anche il procuratore capo della Procura di Milano, e lui mi ha detto una cosa: parliamo di magistrati che hanno avuto una vita piena di eventi pazzeschi, cioè Greco mi raccontava degli interrogatori a Pumicino, degli interrogatori a Craxi, eccetera eccetera, mi raccontava della scorta, mi ha raccontato cose che per me quasi è impensabile che possano accadere a una persona sola, insomma, mi ha raccontato di una vita molto, ma molto particolare e complicata, anche in termini privati. Però mi ha detto una cosa alla fine e che mi ha fatto riflettere, e questa sua suggestione penso che ci possa fare ritornare un po' anche all'inizio di questa nostra chiacchierata. Mi ha detto: io non ho mai avuto paura di essere ucciso, non ho avuto paura che altri si uccidessero a causa di mie scelte, di mie decisioni, non ho avuto paura che qualche mio familiare potesse rischiare la vita o potesse non avere più un futuro. Io ho solo e sempre, tutti i giorni, avuto paura ad andare a letto, perché ho avuto paura di non riuscire ad addormentarmi. Questa cosa ci fa capire che di fronte a fatti grandi, a fatti dolorosi, un po' meno dolorosi, comunque a situazioni che riteniamo in quel momento un po' più grandi di noi, sostanzialmente dobbiamo imparare, comunque, sia che viviamo una vita magari un pochino più organizzata, quotidiana, insomma senza picchi, sia se viviamo delle vite molto rumorose, molto importanti, dobbiamo imparare a fare i conti con noi stessi e comunque con il nostro lato oscuro, perché senza quel passaggio lì, e questo non è un discorso psicoanalitico, secondo me è molto letterario, anche molto artistico, mi viene da dire, senza quel passaggio lì comunque non saremo mai in grado di affrontare nulla, né di grandissimo né di infinitamente piccolo e miserabile. Il figlio? Joel, che forse ne ha sentite troppe, intendeva, no, voleva dire se qualcuno ha da chiedere qualcosa, penso, no? No. Amici, vi ho chiamato per questo, ve l'ho anche scritto. Io volevo prenderci un po' di caffè. Io posso fare una domanda tecnica, però, visto che la categoria di post noir non so se l'ho afferrata bene, ci tenevo a capirla meglio, ovviamente, cioè se è stata messa lì adesso come un indicatore vago, oppure se effettivamente è qualcosa di ha assunto negli ultimi anni una consistenza, diciamo, di genere. No? Dico questo anche perché è una cosa un po' strana, sempre sulla linea Bonelli, che è uscito adesso un libro che io non ho letto, però ho visto più o meno di cosa parla, di Fois, Marcello Fois, che si intitola, mi sembra, Del dirsi addio o qualcosa del genere, che sembra un po' noir, cioè ci sono delle apparizioni, si parla di Bolzano, è ambientato a Bolzano, c'è un commissario pieno di problemi personali, e che ne sa, magari sta iniziando, diciamo, un genere su questa linea. Noi siamo collocati in modo privilegiato per avvistare questa faglia letteraria. Faccio la domanda a te, faccio la domanda a Giuliano, se riuscite a spiegarmela meglio, a me che sono abbastanza ignorante di noir, anche di pre-noir, di noir, e figuriamoci un po' su noir. Guarda, la domanda è particolarmente interessante, anche perché io vivo vicino a Marcello, abitiamo a 10 numeri civici di distanza, a Bologna peraltro, e quindi a breve peraltro faremo una roba insieme, quindi sembra veramente che tutto sia organizzato, in realtà noi non ci conosciamo e non lo potevi sapere, però allora, tendenzialmente ci si annoia, molti si annoiano, soprattutto gli scrittori, a farsi in qualche modo inquadrare all'interno di un genere letterario, sembra quasi una riflessione un po' stucchevole, no? Quella di dover per forza andare, invece, almeno per quello che mi riguarda, anche per me come lettore, è molto interessante questa riflessione, e il fatto che spesso i confini siano poco definiti o definibili non toglie interesse alla discussione. Questa definizione sul post-noir è una definizione di Raoul Montanari, che scrive, come tu ben sai, da tantissimi anni noir, quindi forse è un'autodefinizione, non so, però l'ho sentita recentemente, peraltro mi è stata affibbiata questa definizione recentemente, lunedì, durante una presentazione a Bologna, da Alessandro Berselli, che ha scritto Le sei mesi per Elliot recentemente e che si autodefinisce in qualche modo scrittore post-noir, e ha individuato in questo libro un pochino gli stilemi di questo genere fondamentalmente. Come dicevo prima, sai, il noir deriva un po' dall'hard boiled americano, quindi è molto più marcato sostanzialmente il ruolo anche dell'investigatore, non è un poliziesco, perché spesso e volentieri non c'è la soluzione o la risoluzione del plot che tranquillizza, che rassicura, spesso e volentieri i finali ti obbligano a fare i conti con le tue miserie, con le tue difficoltà, però le figure del poliziotto e del criminale sono sempre abbastanza definite. Esatto, Chandler diciamo è proprio il capostipite un po' dell'hard boiled, però che poi fondamentalmente in Francia è chiamato noir, adesso in Italia è chiamato noir, ma parliamo di quella roba lì sostanzialmente. Il post noir, da quello che ho anche capito io, perché peraltro non lo sapevo prima di scrivere il libro, quindi insomma diciamo è qualcosa che è arrivato dopo, ci riflettiamo insieme sostanzialmente, però visto che mi è stato già detto due volte, no, nell'hard boiled due indizi cominciano a fare una prova, manca il terzo, fondamentalmente forse me l'hai dato tu ora. Però mi interessa questa definizione che è stata data, cioè che cos'è il post-noir? È un racconto dove accade sostanzialmente un crimine, dove bisogna fare o comunque un fatto profondamente doloroso da affrontare, se non proprio un crimine, qualche cosa che ci assomiglia molto e che costringe il protagonista a farci conti. Nella propria quotidianità, quindi non ingaggiando truppe militari per andare a fare una risoluzione rocambolesca e clamorosa dell'evento, no? Sostanzialmente, ma lavorando quotidianamente su se stesso e sulle proprie relazioni piccole, quindi lavorando un po' più sulla materia incandescente che però ci riguarda più da vicino, non quella che riguarda di più il fattore dell'astrazione tipicamente letterario, insomma. Questo è quello che dice Montanari, questo è quello che dice Berselli, Foyce lo interrogerò a breve davanti a una birra nel nostro bar preferito che congiunge i numeri civici in cui viviamo, e se anche lui dirà questa roba, oggi lo so dire di avere coniato il genere post-noir. Nasce oggi, per me muore subito, perché l'improvviso solleone, come potrei immaginare, prenderà tutta un'altra piega. Scrivi un altro libro per scoprire chi l'ha ucciso. Esattamente, e poi soprattutto se uscirà l'improvviso solleone, tu verrai vestito da esistenzialista in nero questa volta, no? Giusto per continuare a ricamare le nostre contraddizioni. Dipende dalla stagione. Ah, ok, ok. Il secondo filone è ricamato in un punto. Ecco. No, scherzi. Potrebbe essere una grande definizione, però per la risposta io mi prenderei 24 ore di tempo di riflessione, se non mi dispiace. Giuliano, qualcuno vuole, anzi, se riusciamo a sollecitare magari. Avete curiosità? Cioè, com'è stata questa convivenza un po' forzata con Giuliano Gerri? No, vabbè. Ma in realtà noi siamo due amici che chiacchierano, chiacchierato tanto per interessi comuni, per lavori direi comuni, insomma, di tematiche letterarie, e vi assicuro che quando si è alle prese con quella che è considerata una delle più potenti attività solitarie, cioè la scrittura, avere la possibilità di godere di un interlocutore che ogni tanto ti aiuta anche a fermare il flusso della scrittura e a guardare sostanzialmente quello che stai facendo con un occhio un pochino più distaccato, aiuta veramente tantissimo. E quindi, insomma, avercene di amici così, probabilmente lo disturberò, anche in futuro, sappilo, è una minaccia più che una promessa, insomma. No, diciamo che avendo un po' di sessionari, no, essendo due nottamboli, no, in realtà Alex è uno sceneggiatore nato, cioè lui ha costruito questa storia secondo i canoni classici della storia del cinema, cioè ci sono proprio i passaggi fondamentali. Però, come dire, diciamo, ha il dono dell'essenzialità, ha il dono di una scrittura pulita, che molto fluida, priva di orpelli, ecco, che, ripeto, e poi ecco, una scrittura molto ritmica. Quello che mi colpisce di Alex, e soprattutto leggendo questo libro, che qui non c'è soltanto lo scrittore e lo sceneggiatore, sempre che siano due mestieri separati, c'è anche il musicista, perché lui ha un ritmo talvolta quasi sincopato, quasi jazz, e un modo appunto di concludere i capitoli o diciamo delle parti della storia come si concluderebbe una session. Ecco, lui ha questa grandissima dote che secondo me noir, pre-noir, post-noir è perfetta per raccontare questo genere di storie che in un certo senso vivono di misteri e lasciano dietro di loro altri misteri fidandosi dell'intuizione e dell'immaginazione del lettore. Ecco. Prego. Ma io avrei una domanda che si riferisce più al mondo del libro in generale, ma ho letto un'intervista sul Corriere dell'Alto Adige, allora mi domandavo perché tu hai in qualche modo, ecco, mi interessa la motivazione profonda per cui sei arrivato per questo tipo di, che è quello che ti chiedono gli agenti o gli editori, no? È da trovare varie cose, non solo questo. Se ogni come editore non te lo chiesco, no? Volevo capire, ecco, è vero questo che sei arrivato a noir perché è un genere che tira o perché hai avuto l'impressione che tu attraverso questo genere riuscissi a fare qualcosa di interessante, perché non credo che sia solo un problema, da quella risposta sembrerebbe quasi che chiedono quello e faccio quello, mi sembrava un po' induttiva. No, in realtà la risposta mia all'intervista di Andretto è stata che fondamentalmente dipende dalla materia incandescente che si ha tra le mani. Me la ricordo perché è recente, generalmente cose di una settimana fa già non le ricordo più, però questa è di 3 giorni fa. In base alla materia incandescente che si ha tra le mani, decido un pochino quale può essere la tecnica narrativa più utile. Questa è stata la risposta. Poi, per fare una battuta, ho detto, poi certo, ci sono anche altri, se no sembra che siamo tutti, diciamo, dei artisti fondamentalmente da non mettere in discussione e che in base alle proprie decisioni ruota tutto il mondo dell'arte attorno. Invece purtroppo non decidiamo solo noi, ma ci sono una serie di altri attori, come tu ben sai, che lavori nel mercato editoriale, che bisogna in qualche modo considerare. Per esempio, faccio degli esempi molto pratici. Quando ho scritto la strage di Bologna mi è stato chiesto, io ho avuto difficoltà, perché insomma in quel caso ho dovuto pensare a fare un fumetto. Beh, per carità, dire graphic novel lo rende più nobile, però fondamentalmente di quello si tratta, di un fumetto, lavorando con antiprocessuali, lavorando con, è brutto da dire, ma anche con il dolore insomma dei familiari che avevano perso i propri cari, insomma ho dovuto cercare di capire come fare. Ecco, quelle situazioni, quelli mi hanno in qualche modo imposto di lavorare secondo determinate tecniche, di pormi delle domande. Non sono stato io a decidere, e anzi devo dirti che questa cosa mi ha fatto crescere forse molto di più che se fossi stato io a decidere, proprio perché dandomi dei limiti, degli obiettivi, mi ha costretto anche a maturare sotto certi punti di vista. Quindi sì, non era propriamente, forse sì, insomma la risposta poteva far presagire quello che giustamente tu hai notato, però quello che volevo dire io era tutt'altro, insomma, fondamentalmente non ci vedo niente di male peraltro nel fatto che qualcuno ti chieda di fare un lavoro, perché questo non vuol dire accettare un compromesso per forza, significa accettare una sfida, quello sì, però la propria poetica, la propria potenza magari, o la forza narrativa, la si può mettere al servizio anche di un lavoro che non ti saresti mai aspettato di poter fare. Andrea, non so perché so già il nome. Ti chiederei una cosa perché non hai risposto, perché qualcuno ti ha chiesto, come me sono passati tanti anni dal primo romanzo all'ultimo, e tuttavia siccome io ho letto questo libro in fieri mentre lo stavi, probabilmente adesso c'è qualche piccola differenza da quando l'ho letto io, però la cosa che mi aveva colpito tantissimo era quello che aveva appena detto Giuliano del ritmo. Il ritmo e il tempo. È veramente incredibile come tutti gli eventi sono battuti in modo serrato, giorno per giorno, notte, mattina. E questa secondo me è la dice lunga sul tema del tempo. E quindi tornando agli anni che sono passati, ti chiedo qual è il tuo rapporto col tempo. Geografico, familiare, perché penso che in questi vuoti ci siano altri pieni, e personali. Ma sì, effettivamente non avevo risposto perché poi incalzare delle domande mi sono perso un po' via. Allora, 14 anni non di riflessione, sono stati 14 anni comunque molto pieni, molto densi e intensi, anche dal punto di vista artistico, perché in realtà questi 14 anni, appunto come vi dicevo prima, ho lavorato di più come sceneggiatore che come scrittore. E probabilmente anche questo lavoro, insomma, questa maturazione mi ha portato a scrivere il libro così come l'ho scritto, che è effettivamente molto diverso rispetto a Nerarive di 14 anni fa. Poi è inutile che lo nasconda, insomma, lo sapete, nei libri non si vive, quindi nel frattempo ho lavorato, ho costruito una famiglia. Peraltro in questo libro scompare un figlio, io non avevo neanche idea che ne avrei avuti, insomma, e lo vengo a presentare che ne sono comparsi due di figli veri miei, peraltro, quindi questo dà un po' l'idea del flusso del tempo anche. Però ecco, una cosa la vorrei dire, al di là del fatto che in 14 anni successe tante cose, ho scritto tante robe, bla bla bla, però prima Paolo ne ricordava una, ce ne sono state altre. Anche per me. Esatto. Devo dire che io ci ho rimesso le mani dopo tanti anni. Se vedete questo libro, di questo ne parlavo anche con Giuliano, è un libro ambientato anni fa, c'è il BlackBerry, ci sono una serie di elementi che abbiamo deciso insieme di mantenere. C'era il Bologna in B, purtroppo è tornato in A. Insomma, sono una serie di fattori, di contesto narrativo che fanno ben capire che è un libro costruito anni fa. Quindi il tempo della costruzione narrativa è stato compatto, e per un libro di questo tipo, dove la tensione fondamentalmente è quasi più importante della costruzione, è fondamentale che tutto che sostanzialmente la sua genesi e la sua produzione avvenga in un contesto, in un lasso di tempo limitato, proprio perché scrivendolo in momenti diversi perderebbe quella tensione, si vivrebbe certamente una sensazione come di non coerenza, non so come dire. Invece il fatto di averlo scritto in un lasso di tempo breve ha aiutato a mantenere quello spleen che io volevo che ci fosse nel libro. Poi il fatto di averci rimesso le mani dopo tanti anni, e penso che anche a questo faccia riferimento la domanda, è stato un'altra esperienza, è stato come quasi scrivere un nuovo libro, oppure lavorare con una materia che quasi non senti più tua, cioè la materia di un sé che viveva un'altra dimensione. Questa cosa all'inizio mi ha fatto un po' paura, devo dire la verità, perché alcune cose mi sembravano forse poco mature. In realtà è stata un'esperienza anche personale, prima come persona che come scrittore, veramente molto molto utile. Chiaro, non ci possiamo sempre prendere il lusso di aspettare 8 anni prima di rimettere mano un libro e pubblicarlo, perché sennò si spiegherebbe il perché dei 14 anni, però in questo caso, visto che la cosa è accaduta, devo dire che ha sortito degli effetti, almeno a livello personale, assolutamente positivi, interessanti. Decisamente. Ora si può acquistare, naturalmente, no? Mi viene da dire. Non mi hanno detto troppo, poi. Vuoi dire il finale? No, il finale lo diciamo, no. Il finale è come un flashback. Ah, bello, bello, bello, bello. Effettivamente. Effettivamente. Grazie. Così non vi ho detto niente. Grazie a tutti voi, grazie di essere stati qua.